Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli invisibili di Nanni Balestrini, parte ottava. Quello dove io vivevo era un paese di merda, e anche la gente era gente di merda. Non mi piaceva questo paese e non mi piaceva questa gente, ma questo paese e questa gente erano uguali dappertutto qua intorno. Erano tutti paesi così, tutti uguali a questo, e tutta gente uguale, e questo qua, intorno questi paesi, se non li conosci, se non li abiti, ti puoi confondere, puoi davvero scambiare un paese con l'altro. Sono tutti uguali, al centro c'è la piazza, che è poi sempre la piazza della chiesa, e tutti hanno sempre la stessa strada principale, che passa in mezzo al paese con qualche negozio e i bar. La scuola e il municipio, tutti costruiti più o meno uguali, e la strada principale che attraversa la piazza e da una parte porta al cimitero e dall'altra alla stazioncina della ferrovia, che collega tutti quanti i paesi tra di loro. La ferrovia è vecchia e dissestata, le carrozze sono sgangherate e sembrano quelle del Far West, e su queste carrozze si va dall'uno all'altro in questi paesi, tutti paesi di 2.000-3.000 abitanti, ma ce n'erano anche di più piccoli. La gente nata di qui, di famiglia di qui, sono ancora di meno, sono la metà, l'altra metà è gente che è venuta da fuori, che è venuta qui a ondate successive. Prima i veneti, che io non ho visto arrivare, poi i terroni, come continuano a chiamarli qui, arrivati qui come le mosche, a famiglie intere, a villaggi interi. Loro sì che li ho visti arrivare. Questi qui, così diversi, con quelle facce diverse, più scure, con una lingua diversa dal nostro dialetto, ma diversa anche dall'italiano, che non si capisce quasi, e diversi anche nei vestiti. Sono arrivati qua e hanno trovato posto nelle vecchie case, mezze cadenti, le grandi case con i cortili che prima abitavano i contadini e che adesso andavano in rovina, e loro ci si installarono a gruppi, tutti insieme, in stanze piccole, umide, cadenti, e vivevano uno sull'altro. C'era il prete del paese che si dava un po' da fare per sistemarli, e questi facevano la coda fuori dalla porta del prete, mentre la gente del posto non li accettava, non ne voleva sapere di loro. Gli sembravano troppo diversi da loro, gli sembravano più incivili, sporchi, ma gli uomini trovarono subito da lavorare nelle tante fabbrichette della zona, che spuntavano su dappertutto, intorno ai paesi, facevano i lavori più di merda, ovviamente, e quando potevano portavano a casa dalle fabbrichette il lavoro nero da fare in famiglia. E tutta la famiglia si metteva al lavoro, in cucina e nella stanza da letto, e lavoravano tutti, i bambini, gli zii e le nonne di 80 anni, vestite di nero, lavoravano tutti lì insieme a catena, a montare giocattoli, topi gigi, cerchietti per i capelli, occhiali di plastica, torce elettriche e roba del genere. I terroni vivevano ai margini del paese, la gente del paese non li voleva, non li volevano nei pochi bar del paese, e era diventato famoso quello che aveva detto una vecchia padrona di un bar, quando era entrato un ragazzo meridionale per chiedere da bere, e lei gli aveva detto: «Adesso ti do da bere e non ti faccio pagare, bevi pure gratis, te lo offro io, ma poi qui non devi mettere mai più piede». E così questa frase veniva citata come si citava una frase eroica, ecco come si doveva fare, insomma. Ogni tanto scoppiavano delle risse tra locali e meridionali, ma tra noi ragazzi non tanto perché si andava a scuola insieme e quello che si sentiva dire in famiglia, sui terroni, era attenuato dal fatto di viverci, di giocarci insieme, di starci insieme a scuola per tante ore e poi all'oratorio il pomeriggio, dove si giocava insieme, perché qui, in questo paese, la chiesa controllava tutto. Il cinema, dove si faceva la fila la domenica pomeriggio, era della chiesa, e per andare al cinema noi bambini dovevamo andare all'oratorio e alla messa, e lì ti timbravano un cartellino che dovevi presentare al cassiere, che se no non ti dava il biglietto. Anche il campo di pallone, il campo di tennis, quello di pallacanestro, quello di pallavolo, la palestra, sono tutti dell'oratorio, e anche la biblioteca e la metà dei bar. Il prete era potentissimo e si confondeva con gli amministratori del paese, che da sempre erano democristiani. Erano di famiglie potenti del paese, ricche, da sempre. Prima della terra e poi col boom economico degli anni 60, con il proliferare della zona delle centinaia di fabbrichette, dove si lavorava 13, 14, a volte 15 ore al giorno, con gli straordinari. Anche mio padre lavorava in una di queste fabbrichette, e per tutte quelle ore anche lui e anche noi in famiglia facevamo il lavoro nero, come i terroni, e lo facevamo da sempre. Sono cresciuto anch'io, come tutti in paese, in mezzo agli scatoloni di cartone, con dentro i pezzi dei fanali e dell'accensione dei motorini da montare. Era la normalità fare questo lavoro in famiglia. Lo si faceva in tutte le ore del giorno e i miei genitori anche la notte in cucina. Dopo aver mangiato si tiravano fuori gli scatoloni da sotto il tavolo della cucina. Si montava sul bordo del tavolo il bilanciere, che poi era una specie di percussore a mano rudimentale, e si cominciava a montare i pezzi. Insieme si faceva una specie di catena, chi montava e chi ribatteva, e fissava col bilanciere i pezzi con i chiodini di alluminio, i ribattini così piccoli che scappavano sempre dalle dita, e con i ribattini si fissavano i pulsanti della luce e del clacson al coperchio di ferro cromato. Si faceva questo lavoro per ore e ore. Questo lavoro stupido, sempre uguale, lo si faceva tutti i giorni, per anni, da sempre, questo lavoro che veniva pagato pochi centesimi al pezzo, però lavorando tutti insieme si facevano migliaia di pezzi e allora saltavano fuori le 1.000 lire che aumentavano il reddito della famiglia. C'erano passaggi di mano del materiale da montare prima che arrivasse alle famiglie. C'erano dei mezzani, che in genere erano i capireparti delle fabbriche, e che distribuivano il lavoro alle famiglie e che guadagnavano unicamente su questo passaggio e venivano anche considerati dei benefattori. E poi ci potevano essere altri passaggi di mano, perché ognuno era libero di ridistribuirlo a sua volta, a chi voleva, purché si rispettassero i tempi della consegna. Anche mio padre passava il lavoro alle famiglie dei meridionali, che venivano a prenderlo a casa. Lui non era razzista. Non è che amava i meridionali, ma neppure li disprezzava, mentre i meridionali in genere erano considerati gente che faceva il lavoro male e non rispettavano le scadenze di consegna. Così lui garantiva per loro le consegne e rispondeva del lavoro, anche se ovviamente in quel passaggio lui ci guadagnava qualcosa. Ovviamente alle fabbrichette che fabbricavano i pezzi conveniva farli montare fuori, conveniva farli montare dalle famiglie, perché così veniva a costare enormemente di meno e così tutta l'economia del paese e degli altri paesi intorno era organizzata così, tra il lavoro nelle fabbrichette e il lavoro nero. In famiglia chi lavorava di più nel lavoro nero era ovviamente mia madre, che lo faceva da anni, che lo faceva tutto il giorno, non appena finiva di fare i mestieri e di cucinare. Allora subito si metteva lì e stava lì per delle ore a ribattere i chiodini velocemente con quel tac-tac secco che era il rumore che si sentiva in casa sempre, a tutte le ore, e nessuno ci badava più. Noi in famiglia lavoravamo tutti. Mio fratello, che finita la quinta elementare, era andato anche lui a lavorare come meccanico. Solo io non lavoravo, perché i miei si erano messi in testa da quando ero piccolo che io dovevo studiare. Studiare questo o quello per diventare questo o quello, ma semplicemente che dovevo studiare. E E poi la solita frase, vecchia come il mondo, così non ti toccherà lavorare come noi. E anche mio fratello, a furia di sentirlo ripetere, non si incazzava se vedeva che quando lui lavorava io non facevo niente, perché io ero destinato a studiare e anche se leggevo un fumetto, stavo studiando, lì avere un figlio in casa che andava a scuola era una cosa di grande prestigio per le famiglie come la mia. Faceva nascere una specie di orgoglio. La gente della città era molto diversa dalla gente del paese. Era migliore, mi pareva. Migliore perché non stavano lì a controllarti, a spiarti come in paese. E lì in città, quello che facevi non veniva mica saputo subito da tutti. Mica arrivava subito ai tuoi genitori, ai tuoi vicini di casa, a tutti. Mica dovevi sempre rendere conto a tutti di quello che facevi. Perché invece in paese è proprio così, tutti si conoscono, ci si conosce tutti e la minima cosa che fai diventa subito motivo di pettegolezzo e quando cammini per la strada ti accorgi di avere tutti gli occhi della gente addosso, tutti che ti guardano e che parlano di te appena sei passato. A me la gente del paese non mi piaceva perché erano tutti baciapile, bigotti, tutti presaioli, ipocriti e cattivi. Tutti cattivi dentro. Dopo aver frequentato un anno la città, io sentivo di avere rotto con queste storie. Non me ne fregava più niente e la gente del paese la sopportavo ancora meno di prima. Non la sopportavo proprio più e così ho cominciato ad andare in città col treno, che ci voleva solo mezz'ora andarci. Ci andavo anche al pomeriggio, quando non c'era la scuola, e in città ho fatto amicizia con i ragazzi della mia età, con ragazzi di 15-16 anni come me, che abitavano in città e me ne sono fregato di stare al paese. Non ci stavo più, o ci stavo il meno possibile. Certo, il problema esisteva la sera, dopo cena, quando non potevo andare in città perché non c'erano più treni per tornare. E allora ripiombavo in quel clima di bar di paese, in quel vuoto che io e anche gli altri ragazzi della mia età non sopportavano più, dopo che avevano conosciuto la città, che tutto era diverso, era più bello nella città. Quello che era successo nel frattempo al primo piano è stata una cosa completamente diversa, perché i compagni, invece di mettersi tutti in un camerone e fare come abbiamo fatto noi al secondo piano, alcuni di questi hanno tentato una difesa, hanno tentato di impedirgli di entrare e hanno tirato le caffettiere. Così ci hanno raccontato dopo, e allora i carabinieri che sono entrati arrivando dal pian terreno hanno cominciato a sparare a tutto spiano, cioè sparavano dappertutto, entravano nei corridoi, sparavano nei corridoi, sparavano dentro le celle, hanno sparato dentro tutte le celle e hanno cominciato a ferire la gente. Hanno ferito una guardia che ovviamente in quel caos si era divincolata, non era controllata più da nessuno e si è messa a gridare: sono una guardia, sono una guardia. Gli è arrivata una sventagliata di mitra che l'ha segato in due, ma non è morto. E poi un altro ancora, che era un comune e si è preso due colpi al femore. Adesso è zoppo per tutta la vita. E ancora adesso sono rimasti nelle blindate i segni di proiettili. Si possono vedere quanti proiettili hanno tirato e a che altezza li tiravano. Si può vedere dei buchi che sono rimasti nelle blindate, anche se i giornali poi hanno detto che avevano sparato proiettili di gomma. Col cazzo, quelli hanno cominciato anche lì a tirar bombe nei corridoi e a sparare all'impazzata. E allora lì la situazione è stata che, a differenza di aggregarsi tutti in un camerone, la gente si è divisa nelle varie celle, prendendo ogni gruppo una guardia in ostaggio. Però anche con le guardie in ostaggio, evidentemente tutti quanti hanno capito che, visto il livello a cui era arrivata la cosa, lì non bastava più la guardia in ostaggio come garanzia del fatto che non ti uccidevano. Lì allora i carabinieri arrivavano di cella in cella, sparavano e dicevano: o uscite subito o vi buttiamo dentro una bomba. E quelli uscivano. Però la cosa strana è stata che il massacro vero e proprio l'hanno fatto sopra e non sotto, anche se sopra non c'era stata nessuna resistenza, perché in fondo sotto non hanno toccato nessuno, non hanno picchiato nessuno, mentre invece sopra hanno fatto il massacro, hanno picchiato tutti, hanno fatto tutte queste sceneggiate, paravano, puntavano alla gente, ti appoggiavano la canna del mitra qua nella tempia. Poi sparavano, facevano di queste scene qua. Dopodiché io ho pensato che la cosa peggiore in quel momento era passata. Ho pensato ingenuamente che il peggio era finito. Ci hanno messi tutti quanti con le mani sopra la testa e siccome eravamo al secondo piano, hanno cominciato a fare scendere tutta la gente in fila giù per le scale. Ovviamente tu non è che scendevi camminando, ti facevano scendere a calci, a colpi di calci di mitra nella schiena e facevi le rampe di scale a rotoloni in mezzo ai colpi, arrivavano colpi da tutte le parti, però non è che quei colpi io personalmente li ho sentiti molto. Non ho sentito niente mentre rotolavo giù dalle scale, illuminate dalle pile, non vedevamo niente, sbattevamo dappertutto, non ho sentito niente, probabilmente perché la reazione che ho avuto è stata quella che pensavo soltanto che non mi avevano ucciso. Qua non mi hanno ucciso, pensavo, non ci hanno ucciso nessuno, ma soltanto non capivo dove ci stavano portando. Cosa stavano facendo? Adesso cosa fanno questi adesso? Cosa faranno adesso che la cosa è finita? Adesso cosa stanno facendo? Dove ci stanno portando? Non riuscivo a capire cosa stavano facendo, dove ci avrebbero portato. E allora, quando sono arrivato a rotoloni in fondo alla rotonda del pianterreno, dopo aver fatto due piani a colpi a rotoloni, dopo che sono finite le scale e sono uscito dal cancello che dava sulla rotonda del pianterreno, lì la scena era molto illuminata, c'era molta luce, mentre dove venivamo da sopra era tutto spento, c'erano solo i fari delle pile, mentre là, quando siamo arrivati giù, era tutto acceso, era tutto illuminato fortissimo. Ma è stato un flash, una cosa di un secondo, il tempo di attraversare la rotonda con tutta quella luce e lì ho visto per un attimo molte persone in divisa in borghese. C'erano i comandanti delle guardie, brigadieri e marescialli, c'era gente venuta da fuori e lì, a calci, a spintoni, a colpi e a botte, mi sono indirizzato verso il corridoio scoperto che porta ai cortili dell'aria. Ho visto che era nei cortili che ci volevano portare, solo che il problema era che appena ho cominciato a scendere i 3 gradini che davano su questo corridoio scoperto, ho capito, ho visto che lì c'era il massacro, perché lì c'erano allineate su due file tutte quante le guardie, mascherate con i passamontagna, stavano lì su due file, con questi grandi pastrani e con in mano manganelli e sbarre di ferro. Allora, siccome questi ci costringevano a correre nel corridoio scoperto con le mani dietro la testa e tu non potevi ripararti, evidentemente allora eravamo ben contenti di dover tenere le mani sopra la testa, perché i colpi ti arrivavano principalmente sulla testa. Erano colpi tremendi che questi tiravano con tutte le loro forze, con i manganelli e con le sbarre di ferro. Io appena ho fatto i 2 gradini. C'era una guardia che subito ha tentato di farmi lo scambetto, di farmi cadere immediatamente, perché lì il problema era di farti cadere e poi picchiarti mentre eri per terra, però non sono riusciti a farmi cadere. Era molto illuminato questo corridoio, era delimitato da una parte dal muro della sezione e dall'altra parte c'era una grande rete metallica che delimitava i cortili delle arie. Sono riuscito ad arrivare fino in fondo, senza cadere, prendendo colpi da tutte le parti, perché il problema era di non cadere, perché ho capito che se cadevi era finita, perché se cadevi evidentemente ti massacravano, potevano picchiarti come volevano e così i colpi li prendevo, però andavo avanti e sono arrivato lì in fondo, però il guaio è stato che quando sono arrivato in fondo ho capito allora che non era lì che dovevo andare. perché ho visto che la gente la facevano entrare nel primo cortile, per cui avevo fatto metà corridoio per niente. Allora ho girato e ho dovuto tornare indietro e lì ancora per una seconda volta passare in mezzo alle botte. Sono tornato indietro e sono arrivato fino al cancello dell'aria dove dovevamo entrare, perché ho visto che lì c'era una guardia mascherata che apriva il cancello. Però i cancelli che davano sui cortili dell'aria, per paura appunto dei sequestri, questo cancello non si apre mai con un angolo di 90 gradi. Non si apre come si apre una porta normale. Cioè, per terra, fissato per terra, c'è un piolo che fa in modo che il cancello si apre solo per un angolo di 45 gradi, cioè si apre poco, in modo che ci può passare solo una persona per volta e in più mettendosi di fianco. Quello che apriva il cancello era un graduato e era lui che giudicava se una persona aveva preso abbastanza botte oppure no. E questo lo giudicava se vedeva questo poteva stare ancora in piedi o no. Per cui se vedeva che uno poteva stare ancora in piedi e non arrivava strisciando sulle ginocchia, allora quando arrivavi davanti al cancello te lo chiudeva davanti. Allora mi ricordo che io sono arrivato fino al cancello e sono riuscito a infilarmi dentro questo cancello, ma siccome il cancello si apriva in quel modo, come ho detto, si apriva appena così, io non riuscivo a entrarci del tutto, mentre questi lì fuori continuavano a picchiarmi ancora e così sono riuscito a tirarmi ancora fuori dal cancello, a strapparmi dal cancello dove stavo entrando, a picchiarmi ancora. E l'ultima cosa che mi ricordo di questa storia di botte è stato che mentre uno mi teneva per i capelli, e allora qui c'è stato un fatto che è stato fortunato, perché io avevo una lunghissima sciarpa di lana rossa, molto spessa, me l'aveva regalata China e la portavo sempre. E quando su sono arrivati i carabinieri, ero indeciso se tenermela su o se toglierla. Era una sciarpa lunghissima, dava l'idea di un cappio, e io ho pensato, qua adesso mi strozzano con questa sciarpa. Ho pensato istintivamente, ho pensato di toglierla, però ho detto, no, non la tolgo. E invece di toglierla me la sono avvolta completamente intorno al collo. E così allora, quando questo mi ha preso per i capelli, mentre un altro mi tirava per il giubbotto, la cosa che mi ricordo è che mi è arrivata una mazzata proprio fortissima, non so se con un manganello o una spranga. Così, una botta terribile sul collo, qui, sulla nuca. E così allora sono svenuto, solo che fortunatamente c'era questo strato di lana della sciarpa che ha attutito il colpo. Infatti poi non mi è rimasto niente, solo che lì io sono svenuto. Però, siccome ero a terra, già dentro il cancello, qualcuno da dentro mi ha tirato dentro, finalmente nel cortile dell'aria. Libri ribelli. Libri ribelli.